Voglia, a voglia. Va bene, va bene. dove ci abbiamo un po' di cose da fare. Va bene, quindi tutto qua. Va bene, là. Bagnetti in piscina fatta te la. Sì, abbastanza. Come funziona quel portatile, bene? Funziona bene, sì, però le sto cambiando il cavo, perché il cavo è un po'... è presente quando ce l'hai molto tempo, che si secca il filo e ti si spacca tutto. È così, cioè rimane il filo vuoto senza la guaina, capito? Ho provato a farne qualche pezzo al nastro, però poi fai un pezzo e si rompe l'altro. Alla fine c'avevo un cavo... capo della, non della Itec, della Midland, di quelli sempre a baionetta, di quelli ce l'è presenti. Adesso sto adattando il coso, lo spinotto di quello là, e di metto il cavo nuovo, capito? Ma il cavo di alimentazione stai dicendo? Si fa da alimentazione anche d'antenna, si biforca ad un certo punto, poi fa sia antenna che alimentazione. Sì, già lo conosco quel portato. Conosco perfettamente. Abbiamo anche provato in certe occasioni con Gianfranco. Va bene, mettilo a posto allora. Avanti Giulio, come va? Tutto bene? Sì, tutto bene. Così un po' annoiato. Perché non puoi uscire, non puoi fare un accidente. Cosa? Sempre a casa. Al computer, alla poltrona, dalla poltrona, al baracchino quando c'è qualcuno. E così via. E poi alla televisione. Tutto lì. Sì, io giungo una veranda all'altra, però. Stiamo decidendo cosa fare. Vediamo un po'. Fine settimana decidiamo. Non lo so. Non sappiamo neanche noi cosa fare, se rientrare a Sassari o che cosa. Ma vabbè, comunque. Qua ho tutto quello che mi serve, quindi non è che abbia grossi problemi. È un casino, noi siamo fermi ad Alghero, abbiamo un lavoro lì dietro praticamente l'ospedale, la nuova all'ospedale, e siamo fermi, comunicato mio cognato che non si può fare, non si può lavorare, e quindi niente, stanno girando un po' le scatole, perché non volevo rientrare, invece avevo tutta la ragazza, questa stronzata, per colpa di certi imbecilli, a rimanere fermo ancora, capito? Vabbè. Va bene, avanti Gianni. Perché hanno bloccato i lavori qua per la storia del coronavirus? Sì, non può entrare nessuno. Manco familiare più di nuovo agli ospedali ci può entrare, sai? Niente da fare, e quindi i lavori sono di nuovo bloccati. Rabbigliamo in gomma le vostre ma, come dice qualcuno. Non ci può più da questa situazione, no mamma. Ogni tanto ce n'è uno che... una greffa di persone che si... questo cavo di coronavirus, logicamente succede quando questi non rispettano le regole, eccetera, eccetera, ma abbiamo detto e ridetto. È inutile. Vai a guardare i forum, ti dicono... Cazzo già, non ho capito quasi niente, c'è un importante. Allora no, disturbo io, no. Faccia, io già ti sento. Sì, ma è così. Guarda, io non lavoro male a nessuno. Però sono contento che si abbia preso il coronavirus, quel deficiente di Briatore. Sono contentissimo, guarda. Questo bastardo che è andato lì a criticare i sardi, eccetera, eccetera. Secondo lui la colpa è dei sardi, perché c'è stato di nuovo questa impennata del coronavirus. Non è lui che ne abbia portati da fuori, tutti quei bastardi che vanno lì nel suo locale a ballare, e poi si è diffuso per tutta la Sardegna e anche per parte dell'Italia, perché quando rientrano poi trasportano il virus anche fuori. E la colpa la hanno alla Sardegna, questi bastardi. Ma te ne immagini, non è possibile. e sono contentissimo che si abbia preso lui il coronavirus. Adesso è ricoverato a Milano. Lui dice che non è vero, che non è. Invece anche poco fa il giornale radio ha confermato, l'ospedale ha confermato che lui ha il coronavirus. Questo disgraziato, deficiente, mascolato, quello e altro, lui viene a dire, pecorai a noi. Vai qua. Però se lui ci deve ricordare che quando è venuto in Sardegna c'erano le pezze nel culo, capito? Anche se non ce li aveva a livello così, perché era già un manager della Renault. E i miliardi li ha fatti in Sardegna proprio con quello quindi. No, oltre a quello c'è anche una prostatite, quindi non è messo così bene, che ne dicano, perché a Rai News 24 hanno dato l'ultimo referto medico e non è messo bene, in condizioni abbastanza serie, quindi comunque vediamo. È una persona che io non odio, ma non mi interessa neanche sentirlo parlare, perché è una persona viscida, una persona scorretta, è una persona che lui continua a vantarsi, capito? E vabbè, pazienza, avanti Gianni, riprendi, non so se mi ascolti, perché ti ripeto, poc'anzi c'era una portante, forse dalla parte mia riesci a coprirti, magari da Giulio no, non lo so. Praticamente lo spazio ma chi è questo bastardo che vuole mettere da portante? Tanto non lo copri, mia, è inutile che tu insisti, ma non lo copri a Gianni. Tanto che è disgraziato, boh, non è possibile. Beh, auguro anche a te che il coronavirus, vai, contento sì. Sei geloso, adesso te l'ho mandato il regalo. Che varia la bomba, di varia. Ti ha messo di una buona portante già, da me passi, ma da Claudio vai qua. Buonasera. Buonasera. No, io a questi livelli no, dai, se devo rilassarmi 10 minuti e no, niente, dai, vi lascio. Qua non lo sento, lo sento sotto, tutto disturbato, fischiato, no. Non mi piace fare così o così, ma dai, vi saluto, continuate voi, ci sentiamo le prossime. Va buona. Speriamo che l'abbia capito, quello lì. Come è possibile? Avanti, buonasera. Ciao Giulio, Luca, ciao anche a Gianni, ciao Claudio, se mi ascolta. Cosa vuoi fare? Tutti bravi dietro un apparecchio, dietro un computer, tutti forti sono. Ciao Luca, tutti bravi sono, tutti vigliacchi sono, o quasi tutti. Una vergogna, adesso lo vede che siamo 4 gatti, anzi 3 gatti siamo, lo 4, 3 gatti. Ebbene, nonostante tutto c'è sempre l'imbecille che cerca di disturbare, che è la soddisfazione che si prende. Ma io le auguro che sia l'unica soddisfazione della sua vita. Vai Gianni. Tu l'ho augurato io l'altro giorno. Capito? Se lo posso. No, me lo passi già, me lo passi, ma di brutto pure. E allora che se ne frega, bisogna caccare giù di dura, almeno se non metti più la porta in porta, e vedi che la bella caccia me la dico. Continua a insistere, ma intanto non ti passa, dunque tu passi abbondantemente, per cui che problema c'è? Solo che da Claudio magari è anche ragione di dire che così non gli piace, è ragione. Però cosa volete, purtroppo ci sono questi individui così, perché non li chiamo persone, io li chiamo mettere a piedi e le chiamo certe persone, perché non è possibile che uno possa essere così scorretto nella vita. Magari che te ne cavi di luce, abbiamo bisogno di, perché non ti studi da solo, anziché stare lì a rompere le scatole che non ti sento. Vai Luca. Beh, se ha qualcosa contro dei Gianni basta andare a affrontarlo. Infatti, vai, glielo dici Gianni, tu mi sei antipatico, vai, devi in faccia Gianni, così c'è Gianni di Biglia Ciaffi, di Biglia, non è possibile, vabbè dai, riprendi già, fregate, intanto non ti passa. Ma quanto vi arriva voi questa portata? Già, a me mi arriva sul più, tu sei sullo zero quasi. Gianni, qui da me, sento solamente l'innesco sotto. basso, per cui non passa, non ci arriva come segnale, non ci supera di segnale, e del radio pure se passiamo, la radio è carissima come sempre la tua. E anche a te l'ha messa giù. C'è anche le bici, c'è. Ma io ci passo a te. Gianni, ti passo io? Sì, sì, lo passi tranquillamente, però stamattina la portante a tratti lo fa pi per compiuti, ma non ti basire, ma così lì. No, non c'è mai nessuno qua. Ma la porta pure a Luca, ma chi è Luca? Ma è tutto un partito, ma che Luca è bello quello. È possibile che ci possa essere gente così vicina. Vabbè, continua a dimmi. Proviamo ad andare 10 km sopra. Andiamo. Aspettami che io passo in sintonia continua, perché adesso sono analizzato. Andate, già mi seguo.